Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Giorgio Squinzi, 71 anni, bergamasco di nascita, milanese di famiglia, sposato con due figli. Il suo gruppo Mapei è composto di 69 aziende consociate, con 63 stabilimenti, di cui 9 in Italia, il resto in 35 paesi e 5 continenti. Parla correntemente 5 lingue, appassionato di sport, ciclismo e calcio, di cui è uno sponsor accanito. Dal 24 maggio del 2012 è presidente di Confindustria, eletto con il 94% dei voti. Oggi denuncia con forza il rischio di desertificazione industriale del paese ed è scontro durissimo con il governo. Letta risponde e dice: Squinzi è un disfattista. Ecco, presidente, lei ha detto meglio elezioni. Com'è la situazione? Ma io, più che un disfattista, credo di essere un realista. Tra l'altro il presidente Letta mi ha convocato a Palazzo Chigi ieri. E cosa l'ha detto? Beh, ci siamo spiegati, gli ho presentato quelle che sono le nostre priorità, che noi riteniamo debbano essere realizzate in tempi strettissimi. Ha preso impegni? Sì, ha preso l'impegno di tornare da noi il 19 di febbraio, si è offerto di venire a visitarci in consiglio direttivo di Confindustria. Ma viene portando, con cosa? Portando delle soluzioni, alcune già fatte e alcune avviate. Ma, presidente, cerchiamo di essere chiari, se il 19 viene con la bisaccia vuota, che cosa capita? Sarebbe un grosso problema. A quel punto credo che non ci resterebbe altro che appellarci al Presidente della Repubblica. Ma il Presidente della Repubblica cosa può fare? O scioglie le Camere o fa un nuovo governo? Ma io credo che il Presidente della Repubblica, nella sua grande saggezza, che personalmente ho già avuto occasione di sperimentare più volte, prenderà le decisioni giuste. Ma voi avete detto, se non c'è la bisaccia piena, elezioni, quindi insomma una delle due cose il Presidente dovrà farla. Lei si affida. Sì. Mi affido. Va bene, senta, anche Prodi però ha detto a Letta: decidi almeno una cosa e prendi un rischio. Sono assolutamente d'accordo. Siamo sempre al 19 con la bisaccia piena. Sì. Se no, guai. Senta, presidente. Nella serie qui i soldi, qui i cammelli. Ecco, qui i soldi, qui i cammelli, mi sembra chiaro. Ecco, lei conosce bene Letta, ma se lo aspettava un immobilista così? Beh, io conosco bene Letta da tanti anni e credo che il suo immobilismo sia anche determinato da una situazione politico-istituzionale piuttosto confusa. Senta, qualcuno dice che è più figlio di Andreotti che di Andreatta, è vero? Beh, diciamo che sia l'uno che l'altro, fosse figlio di uno o dell'altro, sarebbe comunque, i risultati sarebbero comunque migliori di quelli che purtroppo si sono visti fino ad ora. Senta, presidente, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è la pubblica amministrazione, dopo tante promesse, non paga? Ma la pubblica amministrazione paga molto parzialmente. Credo che sicuramente per noi la cosa che ci ha colpito negativamente di più è stato il mancato intervento significativo sul cuneo fiscale del lavoro. Ecco, ma quando la pubblica amministrazione pagava anche prezzi esorbitanti, gli imprenditori però incassavano, stavano zitti, molto contenti. È così? Beh, io non ne ho un'esperienza diretta perché non sono mai stato un fornitore della pubblica amministrazione. Ma allora lei non crede però che in qualche modo la pubblica amministrazione inefficiente ha fatto molto comodo a molti imprenditori? Non ho un'esperienza, quindi non mi posso pronunciare. Insomma, può darsi. Io non credo che sia proprio esattamente così. Senta, ma in Italia le aziende che crescono con tassi da miracolo economico sono solo quelle di extracomunitari in questo momento? Sono poche, ma crescono molto. Beh, non come soltanto, mai? Non soltanto, perché crescono anche le imprese che sono orientate all'esportazione, le imprese manifatturiere, che sono manifatturiero di alto livello, di alta tecnologia. Al settore del lusso ci sono parecchi segmenti che continuano a crescere. Però quelli degli extracomunitari effettivamente sono, forse la fame è un buon motore. Sicuramente la fame, non dimentichiamoci quanto siamo cresciuti noi nel primo dopoguerra, quando avevamo la fame, che nel giro di un paio di decenni ci siamo trasformati da un paese agricolo di seconda fascia e nella quarta, quinta potenza economica al mondo. Senta, presidente, ma lei si aspettava che fosse così complicato fare il presidente di Confindustria? Diciamo che sono capitato in un momento particolarmente sfortunato, comunque la complessità è tanta, ma cerco di difendermi. Ma che cosa le pesa di più di questo ruolo di presidente? Ma in questo momento il dovermi confrontare con una situazione di economia reale assolutamente drammatica nel nostro paese, il dover cercare di confortare e di dare una prospettiva di speranza alle tante imprese che stanno soffrendo drammaticamente. Ecco, ma da quando lei ha in qualche modo messo il governo alle corde, tutte le Confindustrie regionali sembrano liberate da un incubo, le sono venute dietro. È stata una scoperta di sentire che c'era tutto questo. Ma diciamo che l'inquietudine della base la stavamo già percependo da diversi mesi, sicuramente i vincoli, la situazione dell'economia reale spingono in questa direzione. Senta, ma l'accordo Renzi-Berlusconi sulla legge elettorale va nella direzione giusta secondo lei o no? Ma se il risultato finale sarà quello di una stabilità e di una capacità vera di governare, va nella direzione giusta. Mm. Ieri, qui a Mix 24, l'onorevole Romano ha detto che sarebbe meglio avere un governo Renzi subito. Lei un po' già mi ha risposto, ma insomma, ci rimettiamo al Presidente della Repubblica? Assolutamente sì, perché il Presidente della Repubblica, ripeto, è persona di grande saggezza e sa per prendere le decisioni giuste. Ma non sarebbe più legittimato un governo così, no? Non si sa. È difficile giudicare. Difficile dire. Senta, intanto Sergio Marchionne, l'amministratore delegato della Fiat, di Chrysler Fiat, dopo essere uscito da Confindustria è uscito anche dall'Italia. Era inevitabile, eh? Beh, non era inevitabile, diciamo che non era l'analisi giusta della situazione. Io credo che sia positivo quello che è successo per il gruppo Fiat, ecco, perché finalmente c'è un'azienda italiana che diventa investe all'estero e diventa un'azienda globale più competitiva nel mercato globale. E quindi diciamo che è una logica del mercato globalizzato. Sicuramente sì, d'altronde i confini, le dimensioni, i vincoli dimensionali che pone il mercato globale, le imprese ne devono tenere conto, quindi senta, positivo il fatto che Fiat diventi una grande azienda. Senta, ma c'è qualcosa che invidia Marchionne? Beh, un grande manager, una grande capacità di gestire in modo particolare una grande capacità di negoziazione, tra l'altro lo conosco personalmente, ci siamo trovati in sintonia, ho una grande stima. Una grande stima e simpatia per lui. Il maglione lo invidia? Il maglione è sicuramente è interessante, anche se io sono più da giacca e cravatta però. Senta, Presidente, in Confindustria non c'è la Fiat, però ci sono colossi pubblici come Enel e Eni, ma ha senso? Sì, ha senso, perché? Assolutamente sì, perché ad esempio facciamo il caso di Eni. Eni con le sue attività chimiche è il primo operatore chimico del nostro paese. Enel è un fornitore di energia a tutto il nostro sistema e io credo che però l'azionista di maggioranza è pubblico. Sì, però credo che è meglio avere la possibilità di colloquiare, perché in Confindustria abbiamo i clienti e i fornitori e quindi se tra di loro colloquiano penso che sia un vantaggio. È un luogo, dice. Insomma, crede nell'utilità della privatizzazione messa in campo oggi? Sì, direi in linea insomma, di principio. Insomma, più o meno. Sì, sì, sicuramente. Quello che è importante è comunque che le aziende rimangano italiane con la testa, quindi ad esempio tutto quello che è la parte capacità di fare ricerca, di fare innovazione nel nostro paese. All'Italia per esempio sta per diventare araba, va bene? Ma in caso di Alitalia va bene sì, perché chiaramente nel mercato del trasporto aereo Alitalia è troppo piccola e non riesce a competere più. Ecco, senta, a proposito di quello che serve al paese, senta cosa ci ha detto qui l'ex ministro dello sviluppo Corrado Passera a proposito di quello che serve. Per mobilitare un'economia grande come quella italiana bisogna mobilitare almeno 200-300 miliardi. 200-300 miliardi? Lei li è in grado di mobilitare 200-300 miliardi? Ne riparliamo a gennaio? Cioè 200-300 miliardi, a gennaio Passera mobilita 200-300 miliardi. Beh, dove li prende? Lasciamo un attimo di suspense. Ah, sempre a gennaio, appuntamento quasi a tutti a gennaio. Gennaio è finito, ma insomma lei ci crede questa... Beh, che con 300 miliardi si possa risolvere tanti problemi del nostro paese, era un po' la cifra a cui noi eravamo arrivati come Confindustria con il progetto per l'Italia che avevamo finalizzato al mese di gennaio dell'anno scorso. Ah, vabbè, siamo in ritardo di un anno, diciamo. Senta, abbiamo avuto privatizzazioni però che sembravano un toccasana per il paese, come quelle di Telecom, di Alitalia, realizzate dai cosiddetti capitani coraggiosi. Ecco, si sono rivelati abbastanza infelici, ma è colpa del management? Ma è colpa di una situazione confusa nel nostro paese, dove i vincoli non sono mai chiari, la capacità di prendere decisioni è sempre diluita, è difficile. Senta, cosa ci ha detto l'ingegner Carlo De Benedetti a proposito di queste privatizzazioni dei capitani coraggiosi? Colarino arrivò lì, utilizzò la cassa dell'Olivetti per iniziare la distruzione della Telecom. Fu proseguita con grande intensità e è successo. È successo, mi è pare, successo nel distruggerlo. Uno si ritrova, un liberista come me in economia, si trova a dire viva le partecipazioni statali. Ha ragione o torto l'ingegner De Benedetti? Una provocazione? È abbastanza una provocazione. Sì, non c'è niente di vero in quello, secondo lei, no? L'importante è avere l'azionariato che ti dà la capacità di prendere delle decisioni. Senta, Presidente, sul fronte della riforma del mercato del lavoro, Renzi sta per lanciare il Job Act. Lei cosa si aspetta? Beh, di vedere i contenuti effettivi dietro i titoli. Ed è ottimista su quello che potrebbe esserci o no? Ma potrebbe anche essere, cioè, in linea di principio, però mi riservo il giudizio. Di giudicare dopo. Ecco, senta, Landini però, che sembra un interlocutore di Renzi, così sembra, rinnega il patto che voi avete fatto con la CGIL, la CISL e la UIL. Allora? Secondo me Landini si sbaglia, perché il patto sulla rappresentanza che abbiamo firmato con tutte le organizzazioni sindacali, tra l'altro le tre che lei ha citato si stanno aggiungendo tutti una dietro l'altra, è un accordo che introduce una grande democrazia nelle nostre aziende in termini di rappresentanza sindacale. Quindi Landini sbaglia perché ne avrebbe dei vantaggi. Senta, il caso Electrolux pone in modo drammatico il problema del costo del lavoro, anche fra gli altri, e della ricerca, ma non è indispensabile trovare soluzioni comuni almeno a livello europeo per il costo del lavoro? Beh, sicuramente sì, d'altronde abbiamo anche degli esempi. Io non credo che si possa risolvere il problema tagliando la metà i salari. Credo, certo, che possano trovare delle altre soluzioni più graduali per migliorare il cosiddetto CLUP, cioè il costo del lavoro per unità di prodotto, e come peraltro è stato già fatto in Germania. Non dimentichiamo che in Germania i sindacati, in modo particolare in un'azienda, la Siemens, hanno accettato di lavorare più ore a parità di salario. Credo che bisogna fare un mix di diverse possibilità. Ecco, però è difficile trattare con le multinazionali essendo locali, no? Gli interessi dei lavoratori locali in grandi gruppi multinazionali, insomma, per questo dicevo regole europee. Ma sicuramente regole europee. Io sono un fautore dell'Europa, il mio sogno sono gli Stati Uniti d'Europa e credo che... È lì una sede dove si potrebbe regolare. Esatto, ecco. Certamente. Comunque noi non dobbiamo perdere assolutamente gli insediamenti dell'Electrolux in Italia, esatto. In modo particolare quelli in provincia di Pordenone, perché dietro i grandi insediamenti industriali c'è sempre un effetto di traino che spesso va al di là dell'indotto diretto, ma addirittura coinvolge tutta una provincia o tutta una regione. Senta, Presidente, Letta ha proposto una sorta di cogestione come in Germania per gestire meglio le imprese. È una strada possibile anche da noi in Germania, anche in parte in Francia? In qualche modo c'è questa strada? Sai, io come imprenditore ho rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione di un paio di nostre aziende, in modo particolare in Francia e in Germania, anche se io rimango convinto che il modello migliore è quello che ho in Italia, dove sono amministratore unico. Senta, Presidente, in Europa l'Italia per ora sembra non riuscire a ottenere praticamente nulla per fare la politica di sviluppo, ma non contiamo niente in Europa. Diciamo che l'Europa è una costruzione estremamente complessa che necessiterebbe di una messa in comune, un salto in avanti politico e una messa in comune di una serie di fattori che ci possono veramente spingere nella direzione degli Stati Uniti d'Europa. Però l'Italia... Però diciamo, i risultati che riusciamo a ottenere per adesso sono veramente pochi. Diciamolo, sono modesti, sì. Modesti. Ecco, ma no, almeno... Certo, bisognerebbe saper negoziare con forza e con determinazione. Senta, ma almeno ottenere di sforare il vincolo del 3% per fare una politica di sviluppo, per fare un po' di sviluppo, sarebbe indispensabile? Secondo me sì, se gli sforamenti venissero però destinati soltanto per lo sviluppo. Quindi il Tesoro dovrebbe occuparsene. Non deve dirlo, sì, perché sennò non si sente. In modo particolare gli sforamenti dovrebbero essere consentiti per gli investimenti sulle infrastrutture e su tutto quello che può dare crescita. Ecco, ma i vincoli comunitari senza una politica industriale comune, a cosa servono i vincoli? A farci perdere di competitività. D'altra parte non possiamo dimenticare, guardiamo la situazione pragmaticamente, delle grandi aree economiche mondiali, l'Europa, che pure è quella dove c'è la maggior conoscenza, la più avanzata in termini di welfare, in termini di ricchezza e tutto, è quella che ha la crescita minore. Fa più fatica. Senta, ma senza l'euro staremmo peggio? Sicuramente sì. Sicuro? Assolutamente sì, noi come Confindustria abbiamo fatto una valutazione, un'uscita dall'euro vorrebbe dire un calo del nostro PIL nel giro di 2 anni dell'ordine del 30%. Senta, Presidente, lei parla poco di banche, nel documentarmi ho trovato pochi, che giudizio dà delle banche italiane? Le banche italiane fanno quello che possono con le condizioni del paese. Certamente le imprese hanno una difficoltà in questo momento, però le banche italiane sono anche... Ma sono al fianco delle imprese o no? Non completamente, diciamo che però hanno i loro problemi. Io ritengo che ad esempio il fatto che le banche europee e quindi le italiane abbiano deciso di adottare i parametri di Basilea 3 sia un errore, perché non possiamo competere con ad esempio col sistema bancario americano, che pure ha combinato i suoi disastri nel passato, che ha deciso invece di non adottare Basilea 3. Ecco, ma la rivalutazione delle quote della Banca d'Italia è una polemica di questi giorni, di proprietà delle banche stesse, è un regalo alle banche in vista degli stress test? Ma essenzialmente credo che sia venuto da un altro punto di vista, da un altro ragionamento, perché il fatto che il valore di Banca d'Italia fosse 167.000 euro, mi pare di ricordare, sì, essendo meno, sì. le Banca d'Italia detenuta da tutte le principali, sì, banche italiane, il valore reale era nettamente diverso, e quindi facendo la rivalutazione e applicando un'imposta del 20% sulla rivalutazione si è potuto creare una disponibilità di fondi che per sostenere la crescita. Ecco, ma senta, il sistema bancario italiano ha circa 190 miliardi di euro di sofferenze, cioè credito alle imprese, alle famiglie, che non rivedrà più il sistema. Se lei fosse un banchiere, continuerebbe a prestare soldi? Io non sono d'accordo che non li rivedrà più questi soldi, perlomeno non completamente. Vabbè, adesso... Ecco, perché se noi ritrovassimo la crescita, e credo che una buona parte di questi crediti che sono in sofferenza attualmente potrebbero ritornare esigibili tranquillamente. Ecco, ma in Italia non si investe perché le regole non sono mai chiare? Anche per quello? Beh, sicuramente in Italia abbiamo tanti problemi, dalla complicazione normativo burocratico che lei ricorderà è certo. Il punto centrale del mio programma quadriennale di Confindustria, a tutta un'altra serie di condizionamenti che scoraggiano gli investitori stranieri a venire in Italia, come certo. È stato si vede. Chiaramente sì. Analizzato, ma anche stanno scoraggiando anche gli investitori italiani a continuare certo. A investire nel nostro paese. Ma l'Italia perché secondo lei risulta essere il paese più corrotto d'Europa? Ma su questo io non sono personalmente d'accordo. L'Italia è sicuramente il paese dove i procedimenti della magistratura sono forse più incisivi, la magistratura è più attenta. Troppo potere dei magistrati? Beh, sicuramente abbiamo visto tanti casi anche di abusi. Con questo... Sì, ho capito. La corruzione c'è dappertutto, sì. Non dimentichiamocelo. Senta, Presidente Squinzi, prima abbiamo parlato di Prodi. So che andavate in bicicletta insieme, ma chi è più forte? Beh, dipende dal grado di allenamento dei competitori. L'ultimo confronto che abbiamo fatto allo Stelvio nel 2012 mostrava che Romano era più forte di me, però io ho rimediato facendomi spingere da alcuni dei miei ex corridori. Beh, quelli erano forti sul serio. A proposito di ex corridori della Mapei, lei ha smesso di sponsorizzare la Mapei, che era la squadra che lei sponsorizzava. L'ho fatto perché c'è troppo doping nel ciclismo? Sì, il problema era quello. Noi avevamo denunciato, puntato la nostra visione sportiva per uno sport senza scorciatoie, e nel pieno dell'era Armstrong a un certo punto abbiamo ritenuto che era inutile rimanere, era impossibile competere, e soprattutto il fatto che noi denunciassimo il doping era stato anche biasimato e al limite minacciato anche di punizione da parte delle autorità ciclistiche internazionali. È incredibile. Assolutamente sì. Incredibile. Poi questi fatti purtroppo sono stati confermati proprio negli ultimi mesi. Esatto. Senta, ma il calcio è una passione che vale la pena? Sì, direi di sì. Sì? Lei ha giocato mai? Beh, a livello amatoriale. Senta, e perché vale la pena? Vale la pena perché il calcio dà una visibilità che in questo momento nessun altro sport è in grado di dare. Senta, ma è vero che oltre che il Sassuolo, di cui è presidente, lei è anche tifoso del Milan? No, io non sono presidente del Sassuolo, sono soltanto proprietario. Vabbè, scusi, è vero, mi scusi. No, ho visto che ha fatto la rivoluzione, sì. Io sono tifoso del Milan da bambino. Senta, ma il calcio è un grande sogno realizzato col Sassuolo in Serie A oppure un grande esborso a rischio? No, noi abbiamo deciso di sponsorizzare il Sassuolo perché come gruppo dobbiamo molto alle ceramiche italiane, il cui centro di produzione è a Sassuolo. Noi siamo diventati un'azienda globale grazie al comprensorio di Sassuolo. E quindi un debito di riconoscenza. Abbiamo acquisito una squadra che era retrocessa in promozione L'avete portata in Serie A. Per 35.000 euro, e siccome noi siamo gente abituata a lavorare a tenere i risultati. Con metodo, con scientificità, nei modi giusti, un passo dopo l'altro, in 10 anni siamo passati dalla promozione alla Serie A. E conta di restarci per molti anni. Beh, speriamo, adesso abbiamo qualche problema in questi giorni. Senta, Presidente, il calcio è più o meno malato dell'Italia? Il calcio è lo specchio del paese. Senta, Presidente, le faccio un'ultima domanda. Prima dell'euro la Germania stava peggio di noi per molte ragioni, anche ragioni di integrazione fra est e ovest. Adesso non c'è partita. Ci hanno fregato? Ci hanno fregato sì, perché noi abbiamo pagato, noi, e dico noi italiani, ma tutti gli europei hanno pagato l'abbattimento del muro, l'entrata della riunificazione tra Germania Ovest e Germania Est, e loro sono stati più bravi di noi perché tra l'altro sono stati anche capaci di realizzare quelle riforme che noi non riusciamo a realizzare. Grazie Presidente, grazie mille. 9.35, 53 secondi, 800 2400 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Mario, il titolo del Faccia a Faccia con Squinzi? La musica è finita. Non male. Pietrangelo? Quasi una sceneggiatura e un appello a Napolitano, due punti, toglici di torno Letta. Mi sembra che è il mio sommario. La gelosia non è più di moda, è una follia che non si usa più. Devi avere il tuo contento, stile 900, verbo della gioventù. Se tu sei triste bevi un whisky e soda, così all'amore non ci pensi più. Prendi il mondo allegramente, sempre sorridente, e felice sarai tu. Pietrangelo, l'altro giorno una donna ieri che attraversava una piazza ti ha fatto venire in mente lo chic e lo charme di Paolo Conte. Oggi? Che è oggi, la tua musica? Oggi, la tua oggi, musa? La mia musa? Oggi sempre perché il mio riferimento è la stazione Termini, da dove sbuco ho visto un'immagine, mi sembrava Boccioni, gli stati d'animo, i saluti, gli arrivederci. E quindi mi sono ritornato indietro immaginando che questo sia il microfono dell'Eyar. Allora ho dovuto recuperare nell'archivio il trio Lescano. Fermatelo. La gelosia non è più di moda, però vorrei fare una dedica. Prego. E perché noi abbiamo seguito l'epopea detta altrimenti Toteide, no? Di Giovanni Toti, che è arrivato finalmente alla destra del padre, però pare che il famoso padre abbia in tasca un altro nome che ragiona, no, un'altra carta proposta segreta, un'altra proposta, niente meno che Alfio Marchini. Arfio. Il suo profilo Twitter e quindi Toti dovrà rassegnarsi al motto del trio Lescano: la gelosia non è più ma di non moda. Non sarà facile con Alfio Marchini, ma non tu credo, giochi a golf, non credo. Bisogna giocare a golf. No, lui gioca a polo, non a golf. A polo, penso ancora. Però se decide il cavaliere di fare di nuovo la corsetta famosa, quella in pantaloncini corti dove c'era Gianni Letta, dove c'era il tutto il Gota, c'era Confalonieri, lì del Lutri, Gagliani, con Marchini fa un figurone. Non credo che con Marchini riesca a sfondare. Giocheremo a polo, vedremo. Lo invitiamo. Allora, mazza come bolle la pentola stamattina. Vabbè, senti Giovanni, so che a buttafuoco questo non piace, roba plutocratica, dice lui, ma insomma, c'è un meeting della Banca Centrale Europea, vediamo che cosa succede. Draghi ha abituato tutti a un po' di suspense sulle sue decisioni. Il tasso di inflazione è molto al di sotto del target della BCE, addirittura siamo allo 0,7%, è bassissima, tanto appunto che si teme per uno scenario di deflazione. Quindi di prezzi bassi, domanda molto debole, eccetera. Porterà i tassi a zero? Vedremo. Draghi però in tutto questo contesto mi sembra che ha preso molto peso, molto potere nella comunità internazionale dei banchieri. Tu devi immaginare che combatte contro, diciamo, il dogma tedesco, quindi secondo me ha fatto tanto, secondo molti analisti ha fatto molto bene. Per i tedeschi è l'italiano che favorisce il Club Med, ma voglio dire, pazienza, questa è, diciamo, la normale dialettica che può esserci dentro una banca centrale. E quindi attendiamo il meeting di oggi, vediamo che cosa succede e poi lo commenteremo domani qui. Ci sono Salamini? Ecco. Butta fuoco. Ecco il Salamino. Il Salamino di oggi è dedicato ad un fatto che, sebbene un traumatico, rallegra. Allora, c'è stato il ritorno di Pier Ferdinando Casini nella grande casa dei moderati italiani. È ritornato nel centrodestra e questo ritorno... Il figliol prodigo. Figliol prodigo è anche il genero attento, dobbiamo dire, perché lui fa il figliol prodigo, ma questo figlio è anche genero. Il suocero, suocero è bravo. E il suocero ha detto... L'ha consigliato. Diciamo, avrà detto il suocero Caltagirone, avrà detto a Casini, la ricreazione è finita, su. Torna dove serve. E comunque il ritorno di Pier Ferdinando Casini ha determinato una cosa traumatica che però, insomma, una certa soddisfazione la dà. Perché Casini, per tramite di D'Alia, che è il suo uomo in Sicilia, aveva battezzato il cosiddetto governo Crocetta. Sì. E Crocetta tra poco scrocetta, finisce, perché c'è stato un preciso ordine dato da Casini a D'Alia, o meglio da D'Alia a Casini, insomma se lo sono dati tra di loro, e sta storia deciso che... E allora Crocetta dedico questo brano che possa essere di consolazione nelle sue notti insonne, no, perché lui dorme di pomeriggio, dorme allora, prima di farsi il sonnellino pomeridiano si godesse queste note per la voce di Carmen Consoli e di Mario Venuti. Sai quando caio dai a lasciare, quando la vita mia finisce in mare. Pietrangelo, dimmi, ma se vuota e se revota. No, ma ti piaceva la Consoli? Io non ricordavo questo. Intanto questo è un classico, ma mi piace moltissimo la Consoli, mi piace Mario Venuti. Grazie a Dio, c'è una grande tradizione musicale. No, perché secondo me tu opportunisticamente, per scrocettare la Sicilia, abbracceresti anche una cantante che non ti piace. No, mi piace. Mamma mia. Vabbè, sentite, ma avete rotto con questa musica. Sentiamo questa. The money won't change you, la moneta non ti cambia, però un'occhiata al mercato dei cambi io la darei. Dopo lo scandalo dei tassi si sospetta che un gruppetto di banche, le solite 12-15 banche globali, abbiano manipolato il mercato dei cambi. Allora, dopo l'inchiesta a Londra arriva pure questa, che però si fa a New York, sono tutti in trepidante attesa. Ho letto delle bellissime ricostruzioni di praticamente partenze improvvise dei responsabili del mercato dei cambi in queste banche anche negli ultimi mesi e settimane. Secondo me c'è parecchia cosa che bolle in pentola. Qui la pentola continua a bollire, ma il nostro canzoniere... Qual è la proposta? Oggi andiamo sul facile. Gli ascoltatori che possono chiamare 800 24 00 24 349 238 6666 l'SMS. Che cosa dovranno indovinare chi è l'autore di questo verso? Vado alla lettura. Sì, in me come l'eterno corruccio del vento gelido, e non come sono le cose fuggitive, allegrezza di fiori. Tienimi nella forte solitudine. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 se per caso, ripeto, uno avesse l'inizio. Un'idea. Sì, in me come l'eterno corruccio del vento gelido. Silenzio. No, tu sei il frenatore. No, io sono il pilota. No, tu sei il frenatore. Io sono Senka Coffey, il campione di go-kart a spinta della Giamaica. Ti rendi conto chi hai davanti? Sì, mi rendo conto chi ho davanti. Bene. Adesso senti chi hai davanti tu. Io ho 2 medaglie d'oro. Vengo da 9 record mondiali nelle 2 specialità a 2 e a 4. Vengo da 10 anni di intensa competizione con i migliori atleti del mondo. Beh, 4 sotto 0, molto divertente, ci introduci a Sochi, Buttafuoco avrà un sacco di cose da dire. Io vi dico solo che le autorità americane hanno lanciato un allarme sulla pasta dentifrice esplosiva, che gli americani hanno sul posto 140 persone che lavorano con i russi sulla sicurezza, che sul TG1 ieri sera ho visto un servizio sui cani randaci. E vabbè, io non vedo l'ora, francamente, che si aprano le gare. Perché, finalmente. Insomma, E poi quel fringuellone di Ban Ki-moon, quello dell'ONU, ha detto che oggi c'è l'allarme, vabbè, l'allarme in detto. Difesa degli omosessuali. Ma basta, basta, ha ragione. Ma dai. Che basta, sono gli stessi scemi che fino a ieri hanno fatto l'attacco alla chiesa sui pedofili. L'ONU, signori miei, l'ONU. Beh, però lì c'è tutta una discussione aperta. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, sms. Sara, c'è qualche telefonata per il gioco di Buttafuoco? Ebbene sì, ebbene sì. Passiamola. Vai. Sì, pronto? Sì, chi è al telefono? Filippo da Enna. Filippo da Enna? Sì. Ah, cugino di Buttafuoco. Beh, so. Almeno. Credo, di solito credo i di Filippo avere la... sono di Agira, no? Di Assia. La provincia è quella. Mamma mia, attenzione. Allora? Io credo sia Ezra Pound. E il titolo? No, non lo ricordo. Non lo ricordo, allora mamma mia. La risposta non è valida. Abbiamo degli sms, ma non sono firmati. Allora non li leggo perché gli sms vanno firmati. Ci sono delle risposte che potrebbero essere giuste, ma non sono firmate. Non sei veramente un giudice rigoroso. Sì, e vabbè, allora facciamo vincere alla Filippo. RAI, ti ricordi alla RAI quando dicevano mi dia un aiutino? E vabbè, facciamo vincere Filippo. Dai, dai, vabbè, prendiamolo per grazie, buono. Filippo. Allora. Hai vinto tu. Grazie, grazie. E il titolo non lo dice, dillo. Filippo. Non lo sa. Il titolo è scritto magnificamente in greco, perché Ezra Pound utilizzava tutte le lingue vere, sì. Ed è Doria. Doria. Il sindaco di Genova. Professor Simonelli. Lei lo sapeva? No, ma mi spiace, in questi giorni non riesco a partecipare al gioco perché sono in macchina e mi richiamate così, io non vi sento. Ah, peccato, peccato. Potrebbe fare sfoggio della sua cultura anche extra televisiva. Sì, ma voi non ci credete, ma io ho una cultura extra televisiva. No, quella calcistica la sappiamo. Sì, ma anche extra televisiva ed extra calcistica. Sì. Intanto, professore, il canone. Ieri sera dov'era? No, io dico agli spettatori che se hanno da segnalarci anche loro un programma che secondo loro vale il canone, 800 24 00 24, naturalmente vale per loro 349 238 6666. Professore, allora? Allora, siccome lei mi rimprovera spesso di trascurare l'informazione, questa volta faccio un discorso sull'informazione politica. E credo che il canone c'è sempre, almeno 5 volte su 6 da Lilli Gruber, perché Lilli Gruber è proprio brava e soprattutto ho notato ieri che sulla 7 c'è una capacità di cambiare tono nell'affrontare la politica che è straordinario. Non che io vada pazzo per le trasmissioni sulla politica, intendiamoci, che trovo insomma eccessive anche quantitativamente, però ieri sera sono rimasto colpito dal fatto che questo cambio di passo, no? Mentre si aspettava la gabbia con tutto il suo armamentario di servizi, di cose anche un po' gridate, no? Lilli Gruber ha fatto un salottino straordinario, educato, compito addirittura, in cui tra Scanzi, il governatore Cappellacci e il sindaco di Bari Emiliano, partendo da uno spunto che sembrava banale quanto di più salottiero si può immaginare, cioè lo scambio di battute un po' pesanti tra Cappellacci e Urge, si è dato un quadro veramente nuovo, singolare, della politica italiana, una politica educata. Si era appena viste le immagini di quanto era accaduto di nuovo alla Camera, in Parlamento, con l'espulsione di Buonanno, e lui invece, partendo da uno spunto che sembrava aspro, si è dato un colore completamente diverso. Tre persone educatissime, tre persone che pur avendo in teoria posizioni estreme, pensiamo a Scanzi, no? Hanno dialogato e ci hanno fatto vedere la politica italiana in un altro modo. Sotto altri occhi. Vabbè, questo insomma, un passo avanti naturalmente. Dobbiamo ancora una volta lodare Lilli Gruber per la sua capacità. Sara? Professore, sì, educatamente, buongiorno. Le volevo chiedere per non... Ecco, ma ieri sera io mi sono trovata in crisi perché ho visto che c'era uno splendido film, Il Dubbio, con Meryl Streep e Seymour Hoffman, però era sia su Rai 2 che su Sky Cinema. E qui come si fa allora in questi casi, quando c'è il doppione? Dove c'è meno pubblicità? Quando c'è il doppione, come dicono... Buttafuoco dice dove c'è meno pubblicità. Ma sa come dicono... Cioè si divide per due il canone in questo caso. Ecco, ma avete parlato... parlato di me come competente di calcio, allora rispondo come gli allenatori. Meglio avere dei doppioni che non avere nessuno da far giocare. Ah, no? Panchina lunga. Sempre così. Ecco, però, insomma, solo che il canone si paga solo da una delle due parti, l'altro è un abbonamento. Allora, io avrei evitato il dubbio perché ieri Sky aveva un asso nella manica, Sky Cinema, perché in questi giorni c'è stata un po' una caccia ai film con Seymour Hoffman. Certo. E ieri sera Sky 1 aveva niente meno che The Master, cioè il film con cui Hoffman ha vinto la Coppa Volpi a Venezia nel 2012. Quindi devo dire che di tutta questa caccia ai film di Hoffman, in questi giorni, Sky insomma, ha vinto un po' la gara, perché presentare The Master praticamente in prima visione ha un po' surclassato tutti gli altri tentativi. Quindi ha vinto lì. Sul cinema ieri sera The Master era imbattibile. Beh, insomma, no, non so. Tu, Mario? No, perché c'era Zatuichi anche, molto bello, di Kitano, era fantastico. Vero, vero, vero. Una grande serata ieri sera, diciamolo. Ricca di cinema. È un Ma lei ha citato La Gabbia, professore, non l'ha guardata? L'ho guardata. Com'era? Era, come dire... Dopo i complimenti a Lilli Gruber, continuiamo oppure no? A proposito di complimenti a Lilli Gruber, professore, un attimo. Professore, l'altro giorno lei ha detto una cosa, giustamente ha fatto i complimenti allo schema di 8,5, alla costruzione di 8,5 e ha detto che è di Lilli Gruber. E insomma, no, professore, quello è di Giuliano Ferrara. Però sì, poi è voluto, eccetera. Ma non è Lilli Gruber, lo schema quello. Lo schema in è una quello. Stazione radio, è vero comunque, del Michigan o dell'Indiana, non ci si ricorda bene, arrivò un signore con un disco mio, e lo mandò in onda. Il giorno dopo si ebbero 2000 telefonate di gente che voleva risentirlo. Lo rimandò in onda. Il giorno appresso altre 2000 telefonate. L'exploit di Volare è nato così. L'ha detto Domenico Modugno e oggi, con la storia di Mix 24, raccontiamo la sua vita e il suo straordinario successo, curata come sempre da Marina Milone.